riprendiamo la linea, scusate per l'attesa, sono giunte ormai le 12:21. Allora, sabato 15 febbraio alle 17:30 ci sarà anche una conferenza dibattito con storici e studiosi che prende lo spunto dal giorno del ricordo, questa commemorazione così che da una decina d'anni, anche di più, si è ormai introdotta all'interno del nostro calendario e ovviamente insomma sappiamo quanto ci sia dal punto di vista della strumentalità politica e del piegare avvenimenti storici a esigenze che sono praticamente tutte politiche, di sdoganamento anche di un certo tipo di forze politiche e di discorsi relativi a un nazionalismo di ritorno che appunto descrive ciò che è accaduto nel 43-45 lungo il confine orientale senza mai diciamo verificare e approfondire il contesto nel quale si sono svolti quei fatti. Ormai sono diversi anni che la Biblioteca Borghesiana, che fa parte del circuito delle biblioteche di Roma, si trova via di Vermicino, appunto lungo la Casilina, sono ormai 3 anni che si tengono in occasione del giorno del ricordo delle iniziative di dibattito, di incontro pubblico per approfondire appunto queste questioni, ma soprattutto così incardinarle nella cornice che meritano, cioè quella di uno sforzo anche di ricerca che negli ultimi anni numerosi ricercatori e studiosi stanno conducendo proprio per affrontare con cognizione di causa, cioè sulla scorta comunque di percorsi di ricerca seri, questo argomento che per alcuni è scivoloso, per noi a dir la verità neanche lo sarebbe se non fosse per tutta la propaganda che se ne fa, insomma. Noi abbiamo al telefono un compagno, Giangi, che insomma lavora presso questa biblioteca e ci parlerà di questa iniziativa di sabato. Ciao. Ciao a tutti e a tutte. Allora, siamo al terzo anno praticamente, anche da parte vostra, Giangi, insomma una continuità nel dare corso a queste iniziative di dibattito, anche un impegno molto forte, per certi versi potremmo anche dire ingrato forse, nel senso che no, non è nemmeno facile date le temperature insomma a cui si giunge che, dibattendo di questo, perché molto spesso si surriscaldano, affrontare questo argomento non deve essere semplicissimo, ma insomma ne va dato atto a voi che vi siete sforzati così tanto nell'organizzare l'evento. Vabbè, io ti ringrazio per l'apprezzamento, ma comunque diciamo la funzione pubblica del bibliotecario comporta, non solo secondo me, ma è proprio una questione riconosciuta a livello internazionale, parliamo di principi UNESCO insomma, che è la massima organizzazione dell'ONU sulle riguardante la cultura, che il bibliotecario fornisca tra le altre cose informazioni corrette al pubblico. Quindi quando si parla di temi controversi chiaramente è sempre possibile fare degli errori, ma è importante impostarli almeno nel modo corretto. E quindi io ho riscontrato personalmente, mi è capitato insomma più di una volta e mi capita anche leggendo resoconti su come viene celebrato questo giorno del ricordo, che ricordiamo appunto, scusate il gioco di parole, proprio 10 anni che è stato istituito nel marzo del 2004, la legge 92, se ricordo bene, che celebra appunto le vittime italiane degli jugoslavi, e quindi parliamo di morti buttati nelle foibe e di dell'esodo dalle terre ex italiane che dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, sono passate alla Jugoslavia. Ora, quello che dicevo all'inizio, l'esperienza diretta, oltre all'analisi che come compagno insomma posso fare, che hai anche detto tu, e che questa legge, pur guardando la storia, ne fa un uso sostanzialmente strumentale, dicendo alcune cose ben precise. La prima cosa è che gli italiani in quanto tali sono considerati vittime di, degli slavi e del comunismo jugoslavo. La seconda cosa che viene detta è che questa verità, tra virgolette, è stata negata per moltissimi, per troppi anni. E la terza cosa ancora più grave che dicono alcuni è che è stato programmato addirittura un genocidio o un'eliminazione fisica, appunto, degli italiani in quanto tali. E ora questo ragionamento ha portato ad alcune conseguenze, soprattutto a livello di opinione pubblica, a accreditare appunto i poveri italiani come vittime dei cattivi slavi, peggio ancora comunisti. E questo fatto mi è capitato, per esempio, una volta di assistere in una biblioteca pubblica dove lavoravo, che non era questa, alla apologia del fascismo fatta da un invitato a questa commemorazione, che era un reduce, diciamo un ex combattente della decima MAS, quindi un'apologia del fascismo proprio rivendicata in pieno in una Italia nata dalla resistenza e dalla lotta appunto contro il fascismo. Ecco, queste aberrazioni mi hanno portato anche a impegnarmi in questo tipo di sforzo, che in effetti è a volte un po' ingrato, perché qual è la prima accusa che viene fatta ed è stata fatta da parte di politici di destra a chi organizza una commemorazione non in linea con quello che fanno più o meno tutti, almeno qui a Roma? Quella di essere negazionisti, che è una accusa non solo molto grave ma anche molto falsa, perché intanto dobbiamo dire, e tu me lo puoi confermare perché hai fatto questi studi, da un punto di vista storico, a livello di dibattito e analisi storica, non è mai stato negato che ci fossero state delle vittime italiane, quelle con i cadaveri buttati nelle foibe, o che non ci sia stato l'esodo di decine, forse 100.000, forse 200.000 italiani, qui le stime variano, comunque il cosiddetto esodo delle popolazioni italiane ai territori jugoslavi che poi sono tornati in Italia. Questo quindi è una falsità, perché a quel livello c'era. È vero che a livello di massa questa cosa non è stata percepita per molti anni, perché non se n'è mai discusso pubblicamente come da quando è stata istituita questo giorno del ricordo. Ma l'accusa di negazionismo c'ha anche un altro aspetto. Il negazionismo è associato proprio storicamente a chi nega che la soluzione finale contro gli ebrei, quindi chi nega le camere a gas, i campi di sterminio nazisti, eccetera eccetera. Ora è ben facile capire che chi viene bollato di questa accusa e ha molte difficoltà anche addirittura a muoversi fisicamente all'interno di alcune situazioni. Difatti è capitato che alcuni degli storici che hanno appunto contestato e le dimensioni di queste di questo che alcuni hanno chiamato genocidio e le caratteristiche delle vittime, no? Caratteristiche, diciamo, politiche, per cui gli italiani non erano tutti uguali come si vuol far credere. Ecco, chi ha sulla base di documenti e di ricerche dato una versione diversa da quella oggi prevalente viene tacciato di negazionismo, e quindi automaticamente con questa persona non si discute, oppure se questa persona ha la possibilità di scrivere o di parlare, tutto quello che scrive o dice deve essere appunto non preso in considerazione assolutamente. Quindi cosa abbiamo proposto noi sostanzialmente? A differenza di quello che si può constatare anche quest'anno, quello che viene scritto, gli incontri che vengono fatti, abbiamo proposto esclusivamente incontri su questo tema tra storici. Quindi tutti e tre gli appuntamenti, questo è il terzo, prevedono la presenza di storici che hanno fatto ricerche diverse, anche con impostazioni diverse, e quindi si confrontano delle tesi, a volte anche, se non opposte, molto, molto diverse. Però un principio storico che io, come, insomma, non sono uno storico, però ho fatto studi storici, sono appassionato di storia, e che si impara anche alle scuole superiori, no? E che per capire un fenomeno storico bisogna inquadrarlo nel suo contesto, cioè non si può estrapolare un fenomeno escludendo a priori tutto ciò che l'ha determinato, o perlomeno tutto ciò che l'ha preceduto, fino a un termine, diciamo, minimo, ragionevole. Allora, parlare di quello che hanno subito migliaia di italiani, decine di migliaia secondo alcuni, intorno a 1000 secondo altri, dal 43 e 45 anche più in là nel tempo, senza dire, senza spiegare soprattutto ai giovani cosa c'è stato prima di questo, è chiaramente un'operazione molto scorretta e fuorviante proprio dal punto di vista storico, no? A prescindere dal caso politico. Quindi noi da dove siamo partiti? Perlomeno ci siamo detti bisogna partire dal 1941 per poter spiegare quello che è successo dopo. Ora, a voler essere rigorosi, uno dovrebbe dire sì, va bene, ma allora perché non partire anche dall'impero austro-ungarico? Perché tante questioni nascono all'interno di quella situazione, no? Quando Trieste stava sotto Vienna, eccetera, eccetera. Assolutamente. Beh, bisogna anche tenere conto dei tempi che uno ha a disposizione, no? Quindi, secondo noi, il minimo indispensabile era partire dal 41. Il 41 è una data importante che non viene mai ricordata da chi propone il giorno del ricordo, e cioè l'invasione, l'aggressione, la distruzione della Jugoslavia da parte delle armate tedesche e italiane. Ora, la Jugoslavia non aveva commesso alcun atto ostile nei confronti dell'asse, però geograficamente aveva la disgrazia di trovarsi in un'area che Hitler e Mussolini, suo alleato, consideravano fondamentale dal punto di vista geopolitico dell'andamento della guerra. Quindi la Jugoslavia doveva essere occupata, e così fu fatto. Nel primo incontro abbiamo potuto documentare che ben il 10% della popolazione fu sterminato durante questa occupazione della Jugoslavia negli anni della guerra. È una cifra enorme, perché se fate il paragone con la popolazione italiana, il 10% significherebbe oggi 6 milioni di persone, quindi una cosa terrificante. Ora, questo diciamo atto scatenante, no, di tutto quello che è successo dopo, è una responsabilità storica molto grave e molto precisa, e va assolutamente conosciuta. Attenzione, non per dire o per negare quello che è successo dopo, ma per capirlo, perché nella storia se non si fa così non si capisce nulla. Venendo all'incontro di quest'anno, che può interrompermi quando vuoi, quest'anno abbiamo proposto un tema specifico, che sono i campi di prigionia, che a volte si sono tramutati in campi di annientamento. Quindi, siccome rispettiamo la legge che prevede, siamo un ente pubblico, quindi che prevede appunto di celebrare questa giornata alle vittime italiane, noi lo facciamo perché uno degli argomenti di questo incontro sono i campi di prigionia jugoslavi, in cui furono internati molti italiani, anche combattenti e civili. Quindi ci sarà un relatore che parlerà di questo. Dal 45, quindi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, fino al 47, febbraio 47, che è il mese del Trattato di Parigi, con cui sostanzialmente si sancisce la pace in quell'area tra l'Italia e la Jugoslavia. Poi ci furono atti successivi nel 54, la sì, zona A, la zona B, ma insomma non mi dilungo su questi particolari. Abbiamo pensato che il limite dal 41 al 47 fosse il minimo indispensabile per capirci qualcosa, sostanzialmente. Ora però, se ci fossimo limitati a parlare di campi jugoslavi senza dire quello che c'era stato prima, non avremmo fatto un'opera di corretta informazione di un ente pubblico, di una biblioteca, perché avremmo lasciato all'oscuro l'ipotetico, diciamo, utente o cittadino che viene e vuole capire qualcosa di quel periodo. E quindi abbiamo fatto come programma, abbiamo messo in programma anche i campi di prigionia tedeschi e quelli italiani. Quelli tedeschi dall'8 settembre, dall'armistizio italiano, fino al 45, alla fine del conflitto, e quelli italiani prima ancora, dal 41 fino all'8 settembre del 43. Quindi è un quadro che riteniamo coerente sia con gli obiettivi generali di una biblioteca che col tema specifico. Ora, è chiaro che le dimensioni, i soggetti, le modalità possono avere delle cose in comune e delle cose diverse, però questo va conosciuto, perché altrimenti appunto si scade poi nella propaganda. Quindi io mi aspetto che forse qualche polemica ci sarà, perché uno degli storici che abbiamo chiamato è accusata da alcuni fautori appunto della tesi del genocidio italiano di essere una negazionista. La mia impressione, leggendo appunto alcune delle cose che ha scritto, non è così. E quindi noi proporremo una relazione di Alessandra Kersevan sui campi di prigionia italiani. E io ho ricevuto anche nei giorni scorsi dei messaggi che si scagliano contro questa storica, in cui appunto viene accusata di negazionismo e di preconcetto, ostilità nei confronti degli italiani. Io penso che chi verrà a questo incontro potrà farsi un'idea. Noi offriamo degli strumenti, dei riferimenti bibliografici, delle relazioni, delle testimonianze, e quindi i cittadini possono farsi un'idea, se non compiuta, un'idea corretta di quello che è successo, e poi uno farà le sue valutazioni. Fino ad oggi questi incontri, mi fa piacere sottolinearlo, si sono sempre svolti, cioè non sono stati impediti, quindi l'istituzione biblioteca ha consentito sempre che si svolgessero. Certo, le polemiche a volte possono essere anche una cosa positiva se accrescono la consapevolezza, quindi non è che abbiamo paura delle polemiche, perché pensiamo che l'impostazione sia corretta. E niente, che altro dire, vediamo come andrà. Oltre alle due relazioni, al posto della relazione sui campi tedeschi, per un problema che io non mi aspettavo, non siamo riusciti a trovare un relatore su questo, anche avendoci provato per 40 giorni, né a Roma né in altre città italiane abbiamo trovato qualcuno disponibile, cosa che mi è sembrata un po' strana, ma insomma è andata così. E quindi faremo vedere, questa è una novità è di ieri sostanzialmente, un filmato molto importante del Museo della Riviera di San Sabba, che è l'unico lager nazista in territorio italiano, che sostituisce appunto la relazione sui campi di prigionia tedeschi dal settembre 43 all'aprile 45. Quindi l'appuntamento è alle 17:30 qui alla Biblioteca Borghesiana, ingresso libero e gratuito, la sala non è enorme, ma insomma contiamo di poter ospitare tranquillamente le persone che vorranno venire. Benissimo, Gianni, insomma hai praticamente davvero detto tutto quello che occorreva sapere, ovviamente senza, ma non era questa la occasione, insomma, esaurire l'argomento. L'occasione sarà certamente invece il dibattito che si terrà il 15. Ecco, un paio di cose, giusto così a integrare quanto tu già hai detto. La prima è in riferimento proprio all'accostamento, giusto che hai fatto, perché di sicuro insomma c'è un calcolo assolutamente scientifico, probabilmente, nel inserire questa data del 10 febbraio a ridosso di quella del 27 gennaio. In un modo o nell'altro insomma si è voluto porre a confronto queste due date, che dovrebbero essere simbolo nella memoria delle vittime della Seconda Guerra Mondiale, e in un certo senso quasi a equiparare le due questioni, cosa che francamente pone più di un problema. E dall'altra, ecco, per l'appunto, il fatto che fortunatamente, insomma, in questa iniziativa a confrontarsi sono appunto degli studiosi che hanno fatto ricerca su questi argomenti, perché quello che si rileva è un vero e proprio cortocircuito dell'esperienza, delle ricerche, anche serie, che sono condotte, e quanto invece viene operato dal punto di vista della monumentalizzazione del ricordo e della verità, che finisce con l'essere una verità di Stato, se appunto viene fuori senza minimamente fare ricorso o appoggiarsi alle ricostruzioni che vengono fuori dalle ricerche. Insomma, questa è l'impressione forte che si stia creando. Ho ancora due minuti? Sì. Ancora due minuti. Volevo citare un episodio dell'anno scorso che si inserisce in questa tua osservazione. L'anno scorso abbiamo invitato tre storici di nuovo, tra cui un colonnello dell'esercito italiano, il colonnello Zarcone, che è il responsabile dell'archivio storico dell'esercito italiano, quindi una persona importante in questo ambito, indubbiamente, gentilmente ha accettato il nostro invito e ha parlato, l'anno scorso abbiamo parlato dell'esodo, quindi abbiamo parlato dei campi di accoglienza degli esuli italiani, quelli che appunto fuggivano dalla Jugoslavia o comunque lasciavano le loro case e venivano in Italia. A un certo punto, verso la fine dell'incontro, io ho fatto una domanda al colonnello, perché mi era stato inviato un documento da una ricerca di uno storico che era invitato il primo anno, uno storico italo-sloveno, che dopo aver interpellato inutilmente l'esercito mi diceva: beh, prova, se vuoi provare a chiedere tu questa cosa, questo documento. In pratica questa ricerca ha trovato che tra le vittime insignite della medaglia del Presidente della Repubblica, vittime delle foibe, quindi degli slavo comunisti, ci sarebbero 8 criminali di guerra. E quando io ho fatto questa osservazione, chiedendo al colonnello se potesse verificare, visto che lui era il capo dell'archivio storico ed è facente parte della commissione che decide a chi dare queste onorificenze, sulla base della documentazione di questo storico, di verificare se questa accusa era vera o meno. E devo dire che il colonnello ci è rimasto molto male per questa mia osservazione e diciamo ha un po' replicato dicendo: ah, ma gli jugoslavi dicono un sacco di falsità su queste cose. E io gli ho detto: beh, guardi, c'è un elenco, io ho visto che c'è un elenco di oltre 1000 criminali di guerra a detta degli jugoslavi, e però ho anche aggiunto: mi sembra difficile che su oltre 1000 persone siano tutte false queste ricostruzioni, e difatti la verifica, gli ho chiesto ancora, sarebbe da fare soltanto su questi 8 nomi, che sarebbero appunto quelli maggiormente responsabili di crimini di guerra. E quindi gli ho chiesto, non lo voglio sapere adesso ovviamente, però spero che lei ci possa dare una risposta scritta su questo. Ebbene, a distanza di un anno, nonostante un'ulteriore sollecitazione, non è arrivata nessuna risposta dall'esercito italiano. Questo è abbastanza emblematico e rivelatore, l'episodio che ci hai raccontato. Comunque, insomma, sabato sarà una occasione per continuare a dibattere e a fare luce su queste vicende. Le relazioni sono di sicuro interesse, ricapitolando quella sulla campi di prigionia italiani a cura di Alessandra Kersevan, sui campi di prigionia jugoslavi a cura di Costantino Di Sante. La biblioteca borghesiana si trova a Largo Monreale in via di Vermicino, quindi il dibattito inizierà alle 17:30. Giangi, grazie per la tua disponibilità e a presto. Buona giornata a tutti e tutte. Ciao. Bye. All right.